I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. Il successo della sinistra radicale di Tsipras sta scatenando le previsioni degli operatori di borsa su come a questo punto si rinegozierà la situazione del debito greco con gli organismi internazionali. Ma intanto, prima del risultato elettorale greco, nei giorni scorsi abbiamo visto il nuovo rally della borsa, forti riduzioni di tutti gli spread, il crollo dell'euro sul dollaro che anche stamattina continua a scendere ed è sotto quota 1,12. Le eccezionali misure di stimolo monetario, più consistenti del previsto, lanciate da Mario Draghi nell'attesa riunione della Banca Centrale Europea di giovedì, hanno avuto l'effetto sperato. La BCE comprerà obbligazioni e titoli di Stato dei paesi europei per un ammontare di 60 miliardi al mese, iniziando da marzo prossimo e fino a settembre 2016. Assorbita la reazione per le iniziative della Banca Centrale Europea, a questo punto tutto il focus si sposta sulle conseguenze finanziarie, come dicevamo, del risultato elettorale greco. Per quello che riguarda l'Italia, le attenzioni nei giorni scorsi hanno avuto come protagonista prevalente il mondo delle banche popolari. Dopo la riforma del governo varata una settimana fa, 10 banche del settore in 18 mesi saranno trasformate in SPA e la notizia ha letteralmente scatenato i titoli in borsa, anche se non mancano naturalmente gli oppositori al progetto del governo. Comunque seguiremo ancora il dibattito molto acceso, ma la settimana è cruciale soprattutto per le candidature e l'elezione del nuovo capo dello Stato italiano. Certamente le trattative su questo punto non mancheranno di impattare a Piazza Affari. Sono previste anche diverse aste di titoli di Stato. Infine un'occhiata agli Stati Uniti, dove prosegue la diffusione delle trimestrali di molte società, arrivano i dati sui beni durevoli, ma soprattutto tocca alla Federal Reserve riunire il suo braccio di politica monetaria, il Federal Open Market Committee, e indicare quando arriverà il primo aumento di tassi americani. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il risultato delle elezioni greche, con il netto successo di Syriza, il partito anti-austerity guidato da Alexis Tsipras, non sembra aver scosso più di tanto i mercati, neppure quando si è appreso che Syriza, che ricordiamolo è una coalizione delle forze della sinistra radicale, formerà un nuovo governo con ANEL, il partito di destra degli indipendenti greci. A unire due forze politiche così diverse c'è la contrarietà di entrambi verso l'austerity, verso quel piano di riforme che Atene ha dovuto accettare e sottoscrivere con la Troica, cioè con la Banca Centrale Europea, l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale, per ottenere i prestiti che hanno consentito il salvataggio del paese dal default. Il nuovo governo greco cercherà di varare subito un piano per ripristinare alcune tutele cancellate dalla Troica, per esempio l'assistenza sanitaria che ora si perde dopo un anno di disoccupazione. Di certo, se tutto ciò fosse successo 4 anni fa, sui mercati finanziari si sarebbe scatenata una tempesta con elevata probabilità di contagio ad altri paesi, compresa l'Italia. Oggi sembra esserci meno preoccupazione. Perché? Probabilmente perché tutti sanno che in questa fase a nessuno conviene arrivare a una rottura. Lo stesso Syriza non parla più di uscita dall'euro, né di taglio dei 320 miliardi di debito pubblico, ma semmai di rinegoziazione del debito, che significa allungare le scadenze e abbassare i tassi. Insomma, i mercati credono che alla fine si eviterà il peggio, perché se non si troverà un accordo, a rischiare non sarà solo la Grecia, ma anche, anzi forse soprattutto, la tenuta dell'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.